Quanti sono ormai abituati alla malattia? Sanno da prima che stanno per essere colpiti da essa e fuggono lontano dagli uomini. Oh, se è vicina alla loro casa, a casa, altrimenti in un luogo molto solitario, dove pochissimi possono vederli nel peccato e subito si nascondono. Questo fanno per vergogna del loro male, non per paura, come molti credono, del demonio. I bambinetti dapprima cadono dove capita per mancanza di abitudine, quando invece vengono colpiti spesso, non appena ne hanno avuto sentore in anticipo, fuggono dalla madre o da chiunque altro conoscono molto bene, per timore e paura del male. Infatti, essi non sanno ancora che cosa sia vergognarsi.